Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, parleremo nella seconda ora soprattutto del caos, per essere buoni, che sta investendo il governo su due provvedimenti. Uno è la famosa TASI, perché ancora non si è notizia di quella che sarà la versione definitiva, soprattutto per quello che riguarda le aliquote, no, le aliquote che i comuni, lo spiegavamo anche ieri, i comuni potrebbero avere fino al 3,5 per mille, questa è la richiesta del comune, di possibilità di aumentare la TASI, la tassa sulla casa. Gli aumenti dovrebbero però servire per finanziare un meccanismo di detrazioni che consenta di neutralizzare quella cosiddetta regressività della tassa, ossia che fa pagare di più chi ha piccole case rispetto a chi ha appartamenti e case di maggior valore catastale, perché lo ha scoperto e documentato molto bene, solo 24 ore la tassa attualmente farebbe pagare in proporzione di più i proprietari di immobili piccoli e medi rispetto ai possessori di grandi abitazioni. E questo è un fronte. Mentre sull'altro fronte, come vi hanno già raccontato i nostri GR, retromarcia del governo in maniera anche un po' imbarazzante, devo dire, sul fronte dei 150 euro che gli insegnanti avrebbero dovuto restituire ogni mese e derivanti dalla questione del blocco degli scatti. Allora, non dovranno restituirli, questo nonostante in base ad una comunicazione del Tesoro dello scorso 27 dicembre, si era capito così, cioè che avrebbero dovuto ridare 150 euro al mese. E qui inizia uno scaricabarile non edificante, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze dice: siamo solo esecutori dei pagamenti degli insegnanti, gli cedolini vengono emessi sulle indicazioni del Ministero dell'Istruzione. Il Ministro Carrozza, ospite anche Radio 24 oggi, poi lo ascolteremo, dice: il Ministero dell'Istruzione è stato avvisato a dicembre, ha avvisato a dicembre il Ministero dell'Economia che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti, dando al Ministero il tempo necessario a formulare diverse istruzioni. E poi il Ministro Carrozza, appunto, a Radio 24 ha detto: attenzione, tra Natale e Capodanno sono stati presi questi provvedimenti per inerzia amministrativa, senza comunicare ai ministri competenti che cosa stava avvenendo. E qui quantomeno c'è un problema di rapporto tra i corpi tecnici burocratici dei ministeri e l'espressione politica, che è il ministro. Insomma, com'è possibile che per inerzia amministrativa poi i ministri debbano fare retromarcia in questo modo, non avvisati, secondo quanto ha dichiarato appunto il ministro Carrozza, di quanto stesse avvenendo? Diciamo che non edificante forse il termine più morbido per questa vicenda. Vedremo se arriveranno in giornata, in serata, a questo punto, novità sulla TASI, anche se è dura che oggi possono arrivare delucidazioni. Nel frattempo noi apriremo con il dato di oggi sulla disoccupazione giovanile. Allora, attenzione, la disoccupazione giovanile è altissima, record dal 1977, da quando viene misurata. Siamo al 41,6% di disoccupati tra i 15 e i 24 anni. Però la disoccupazione misura il numero di persone che non riescono a trovare un lavoro tra quelle che lo cercano. È ovvio che tra i 15 e i 24 anni non è alta la percentuale di quelli che stanno cercando un lavoro, perché molti studiano. Infatti, se si va a vedere qual è la percentuale di disoccupati tra tutti i giovani, quindi complessivamente dato il numero di giovani tra i 15 e i 24 anni, la percentuale scende all'11% come dato. Il problema è che, al di là della disoccupazione giovanile, che comunque resta un dato altissimo, perché nonostante la distorsione, perché la disoccupazione non comprende chi non cerca un lavoro perché per esempio studia, il dato più allarmante è che sta calando anche l'occupazione complessiva, cioè la quota di occupati tra tutti quelli che potrebbero lavorare. E di questo parleremo con il ministro al lavoro Giovannini in apertura del programma. Poi la borsa, come sempre, borsa che è invariata oggi a Milano, peggio fa Parigi meno 0,34, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,40 e l'America meno 0,50%, negativo Salvatore Ferragamo del 5,30%, Pirelli del 3,20%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi del 3%, Tod's meno 2,50%, continua lo storno dai titoli del lusso, anche Luxottica perde l'1,60%, Uniposai meno 2,26%, chi va bene, qualche bancario anche oggi, Popolare Emilia Romagna più 2,20% come Intesa San Paolo e Unicredit, il Banco Popolare guadagna l'1,80%, A2A l'1,40%, World Duty Free l'1,40% e Telecom Italia l'1,2%. Per cento, l'ultimo numero, come sempre, quello per i vostri sms, che è 349-238-6666, e poi, come sempre, la pagina di Focus Economia su Facebook. Iniziato con oggi il semestre di presidenza greca all'Unione Europea, poi toccherà all'Italia. Il ministro delle finanze greco Yannis Sturnaras ha detto che è prematuro parlare di un terzo piano di aiuti per la Grecia, ma resta un gap, una mancanza di soldi e di esigenza finanziaria di 11 miliardi per il periodo 2014-2015. E poi il ministro degli esteri Evangelos Venizelos ha detto che occorre rimediare agli errori iniziali commessi dalla Troica, quindi Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, e che è un insulto ai greci ventilare preoccupazioni sul debito ellenico. In Germania si amplia ancora il surplus commerciale, quindi la differenza tra quanto la Germania esporta e quanto importa. Ha toccato nel mese di dicembre i 18 miliardi di euro contro i 16 miliardi e mezzo del mese precedente. Sono cresciute le esportazioni dell'1%, mentre le importazioni hanno avuto un calo dello 0,5%, e Berlino rischia di attirarsi nuove critiche per un'economia troppo dipendente dall'export e che consuma poco, vista la, chiamiamola così, ricchezza e lo stato di salute della Germania stessa. Quindi l'accusa è sempre la solita: la Germania deve iniziare anche a consumare, non solo a esportare. Ancora per quello che riguarda l'Italia, al di là della polemica, ripeto, poi ne parleremo, sulla tassa degli insegnanti, la restituzione dei 150 euro degli insegnanti, e invece la TASI, quello sì, su cui ancora vorremmo capire intanto che aliquota potranno dare i comuni come maggiorazione, ma anche quando si dovrà pagare, perché restava nel testo originario la possibilità di pagarla o in una rata o in due rate, possibilità che viene data ai comuni. È chiaro che se un comune scegliesse due rate, la prima arriverebbe fra pochissime settimane. Ancora, per quello che riguarda invece, segnalo un'intervista di oggi su Sole 24 Ore al ministro agli affari regionali Graziano Del Rio, che ha detto: attenzione, l'IMU sulla prima casa è stata abolita, è evidente che la nuova tassa non può essere peggiore di quella che c'era prima. Questo vorrebbe anche la logica e il buon senso. La facoltà che diamo ai sindaci di aumentare le aliquote deve essere strettamente legata all'introduzione delle detrazioni. Ma l'ex segretario generale dell'ANCI, dei comuni italiani, nonché deputato renziano Angelo Rughetti, oggi ha dichiarato: mi chiedo se non sia opportuno fare una pausa di riflessione, riavvolgere il nastro e trovare una soluzione più equa, meno improvvisata, e rinviare tutto i pagamenti legati a TASI, TARI e di IMU, diciamo tutto quanto, a giugno. La FIOM chiede che il presidente del Consiglio Enrico Letta in persona si attivi e convochi un tavolo sulla Fiat per capire quali investimenti e quali politiche industriali devono essere fatti perché il nostro resti un paese industriale. Lo ha chiesto in una conferenza stampa oggi il leader della FIOM Maurizio Landini, questo alla vigilia anche dell'incontro con la Fiat. Ascoltiamo al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Abbiamo avuto assemblee molto partecipate, abbiamo avuto nuove iscrizioni delle persone e soprattutto c'è stata la possibilità di una discussione e abbiamo sottoposto al voto le nostre richieste da presentare all'azienda, che hanno avuto un consenso superiore al 50% di quelli che hanno partecipato e degli addetti dentro le imprese. Quindi si conferma che la FIOM è un sindacato rappresentativo e per questo noi chiediamo di avere gli stessi diritti che hanno gli altri, ma soprattutto la domanda che viene dalle fabbriche è poter riaprire con la Fiat una discussione finalmente sugli investimenti che sono da fare in Italia e sulle ricadute che questo accordo ha nel nostro paese. La famiglia Agnelli in questi anni ha mantenuto i suoi dividendi spesso senza tirare fuori un euro. Oggi è il momento, io credo, di ricapitalizzare le imprese e soprattutto di rilanciare un piano di investimenti per nuovi prodotti, perché adesso in Italia si fanno solo 400.000 auto. Quindi l'Italia, rispetto al numero delle auto che il nuovo gruppo fa, contribuisce per meno del 10%. A un livello di produzione di questo genere non si garantisce l'occupazione per i prossimi anni e quindi per noi la discussione da fare è quali investimenti si fanno, quali nuovi modelli si fanno, e per questo chiediamo che il governo, la presidenza del Consiglio in persona, convochi un tavolo e apra questa discussione coinvolgendo tutti i sindacati e direttamente con l'impresa, come avviene nel resto del mondo industrializzato. Adesso ci occupiamo di occupazione, scusate il gioco di parole, però prima, insomma. Una buona notizia c'è una volta tanto sul fronte della spesa delle regioni italiane, ma non solo, perché l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi strutturali da destinare alla Lombardia. Qual è il motivo? Non è poca roba, sono 1.800.000.000 di euro in tutto nei prossimi 5 anni, ma sono 530 milioni in più rispetto all'ultima tranche di aiuti. Per due motivazioni, dicevo. Da un lato, la Regione Lombardia ha dimostrato una particolare efficienza nell'utilizzo dei fondi, che vanno a cofinanziare le iniziative di sviluppo. Dall'altra, gli effetti della crisi si sono fatti sentire più che altrove. Questo vuol dire che poi a Bruxelles, se uno usa bene i fondi che riceve, diciamo così, viene anche premiato. Non so se sarà il caso di alcuni comuni di cui adesso raccontiamo simpatici aneddoti. Allora, al comune di Napoli non bastavano le 9.000 persone dipendenti più le altre 9.000 che sono dipendenti delle società partecipate del comune, e fanno 18.000 persone. No, ma non bastavano neanche i già 39 staffisti che ci sono. Perché? Perché con la giunta dello scorso 23 dicembre il sindaco Luigi De Magistris ha deciso di assumerne altri 20 di staffisti. Cosa sono gli staffisti? Sono collaboratori che svolgono un lavoro importante, visto che molti assessori gestiscono più di una delega. Va detto che però negli ultimi anni la spesa per gli staffisti era via via diminuita da 2.400.000 euro lordi annui a 2 milioni. Nel 2012 era scesa a 1.600.000. La spesa per questi 20 nuovi staffisti sarà invece, riporterà in alto la spesa complessiva, perché comporterà questa assunzione o comunque contratto, perché non tutti sono assunti e quindi sono a tempo determinato o a part time, però peserà sulle casse del comune di Napoli per ulteriori 453.000 euro, a cui chiaramente si sommano anche, vanno ad aggiungersi, gli oneri contributivi e l'IRAP. Adesso il comune di Roma, perché la colpa non è del sindaco Marino appena arrivato, però insomma bene che sappia. Ieri abbiamo raccontato di un comune che ha un buco di bilancio di 1.200.000.000 e circa 10 miliardi di debiti. dei dipendenti, che sono l'85% di tutti i dipendenti delle controllate dal Comune di Roma, e mi riferisco ai rifiuti, acqua e trasporti, le tre municipalizzate, che hanno più dipendenti dell'intera Fiat in Italia. Una di queste è l'AMA, l'azienda municipale ambiente, quella che diciamo, dovrebbe occuparsi anche del piccolo problema delle foto che abbiamo visto in questi giorni di maiali vicino ai cassonetti a Roma. E invece si preoccupa di sistemare i parenti. Perché? Perché allora l'ex amministratore delegato di AMA era Franco Panzironi, voluto da Gianni Alemanno, tuttora sotto processo per 841 assunzioni sospette nel biennio 2008-2009. Voi direte, uno che è sotto processo per 841 assunzioni sospette sta fermo. Eh no, perché in un blitz di fine anno, praticamente il 30 dicembre, si sono presentati in giacca e cravatta 8 signori mai visti nel palazzo dell'AMA. Perché? Per firmare il contratto che partiva dal 2 gennaio. O voi direte, vabbè, ha assunto 8 persone, a parte che sei sotto processo per 841 assunzioni sospette. Fermati un attimo, no! Sapete chi sono? Allora, uno di questi 8 è Giovanni Marzi, cognato di Panzironi, ma è una coincidenza, ci mancherebbe. E gli altri 7 sono impiegati funzionari della FU Marco Polo, la joint venture fra AMA, CEA e Inteur, creata per svolgere servizi di pulizia e sorveglianza. Sono contratti necessari? Boh, se lo chiedono un po' tutti, anche perché altri lavoratori, 250 lavoratori selezionati dall'agenzia Manpower nel 2011 per la raccolta differenziata, continuano ad aspettare di essere convocati. Dai, chiudiamo in bellezza con un tocco di naïveté, di ingenuità, perché prima la ASL di Salerno ha visto il manager costretto a firmare un provvedimento per sollecitare i dirigenti a tenere accesi cellulari aziendali e ad essere quindi reperibili. Adesso invece i responsabili del Dipartimento Economato hanno diramato una nota indirizzata ai centralinisti di Nocera Inferiore di Salerno. Cosa recita la nota? Ricorda agli addetti alla telefonia di astenersi dal collegare i richiedenti, quindi quelli che chiamano il centralino, con utenti non corrispondenti a numeri istituzionali, e per evitare equivoci chiarisce: non sono numeri istituzionali i bar, i ristoranti, le case private, le pizzerie, le discoteche, le sale da ballo. Non ci facciamo mancare niente, eh? E invece adesso dalla difficoltà di controllare le spese dei comuni italiani passiamo al dato di oggi. La disoccupazione a novembre, in realtà il dato, allora, sale dal 12,5 al 12,7%. Il tasso di occupazione, la disoccupazione, misura chi non ha un lavoro tra chi lo sta cercando. L'occupazione invece va a vedere tra tutti quelli che potrebbero lavorare, anche chi non vuole lavorare, quanti stanno lavorando. E il dato sull'occupazione è sceso al 55,4%. La disoccupazione giovanile tocca un nuovo record da quando la misuriamo, dal 1977, al 41,6%. Ora, uno può, ascoltando questo dato, pensare che praticamente un giovane su due tra i 14 e i 25 anni sia disoccupato. Non è esattamente così, perché la disoccupazione va a misurare appunto solo chi lo sta cercando un lavoro. Allora, se scorporiamo il dato, visto che tra i 15 e i 24 anni, per fortuna, molti giovani studiano, ci accorgiamo che sono l'11% i disoccupati veri e propri, fatto 100 il totale dei giovani tra i 15 e i 24 anni. Siamo in collegamento però con il ministro Giovannini, allora aspetto il collegamento, però ci ha raggiunto il preside della Facoltà di Sociologia della Cattolica di Milano, Mauro Magatti. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora Magatti, poi arriviamo anche al ministro Giovannini con quello che riguarda l'analisi dei dati, però mi chiarisco una cosa prima di tutto: siccome abbiamo prospettive di disoccupazione in aumento anche quest'anno, perché i dati che vediamo stanno a dimostrare che cala un po' la cassa integrazione, aumentano un po' le ore lavorate, ma non a sufficienza per generare occupati, qui non rischiamo di creare una generazione che insomma dal 2010 al 2017, 2018 convivrà in maniera strutturale, fisiologica, con un lavoro intermittente che c'è, non c'è, nemmeno solo precario, delle volte non è nemmeno precario? Se non si fa niente e se non si interviene, la risposta dolorosamente è sì, ed è una cosa peraltro annunciata in Italia da molto tempo. C'è questo, come dire, il conflitto sociale è una delle come dire, delle faglie su cui si produce il conflitto sociale, è quello generazionale. Da una parte sappiamo una larga quota di pensionati, abbiamo soprattutto adulti, la fascia adulta che è inserita nel mercato del lavoro, un'ampia parte di questa ha tutta una serie di garanzie, e abbiamo accumulato negli anni, prima della crisi, lavoro precario nelle fasce giovanili, e dalla crisi in avanti abbiamo invece si è bloccato il meccanismo, e quindi c'è un'intera generazione che rischia di non entrare nel circuito economico. Questo è un grosso problema. Ecco, poi vorrei capire anche appunto che tipo di giovani stiamo creando, perché un conto è dire quest'anno la disoccupazione aumenterà o comunque non calerà, è un conto è avere una prospettiva che ormai va avanti da 4 anni e rischi di andare avanti altri 3-4 anni. Però ci ha raggiunto in collegamento adesso il ministro Enrico Giovannini, che ringrazio. Buonasera ministro. Buonasera. Allora, dicevamo della differenza tra disoccupazione in senso stretto, 41,6%, che comunque è un record dal 1977, e invece qual è la percentuale su tutti i giovani di quelli che non lavorano, che è l'11%. Qual è il dato che più la preoccupata di quelli che ha visto, la disoccupazione giovanile o il fatto che l'occupazione, e quindi la percentuale di chi lavora tra tutti quelli che potrebbero, continua a calare? Certamente il dato sull'occupazione, perché nelle fasi di ripresa, e sappiamo che alcuni settori, in particolare il manifatturiero, ormai ha chiari segnali di recupero produttivo, come anche il Sole 24 Ore spesso cita, ecco, in queste fasi molte persone scoraggiate dall'alta disoccupazione, dalla crisi, si ripresentano sul mercato del lavoro, e come tali verrebbero ricalcolate dall'Istat non come inattive ma come disoccupate. Questo è un fenomeno normale che può portare a aumenti del tasso di disoccupazione anche nel caso di ripresa economica. Invece la riduzione dell'occupazione, che purtroppo prosegue, segnala come le cessazioni siano minori delle nuove assunzioni, che pure ci sono. Vorrei ricordare che nel terzo trimestre del 2013 sono stati quasi 2,5 milioni di contratti di lavoro, di cui circa 500,000 a tempo indeterminato. Ecco, vuol dire che abbiamo ancora l'onda lunga della crisi che colpisce il nostro capitale umano. E poi la seconda considerazione è che al di là del tasso di disoccupazione giovanile abbiamo tantissimi NEET, i cosiddetti giovani che non studiano e non lavorano, che quindi sono fortemente inattivi, e come tale stiamo sprecando un capitale umano che abbiamo faticosamente formato. Quindi ministro, lei ci conferma che nonostante un calo della cassa integrazione, un aumento delle ore lavorate, tutto questo nell'industria, tutto questo non sarà sufficiente per generare nuovi occupati nel settore industriale. Non è sufficiente in questa fase. L'esempio che si fa è che noi, attraverso gli incentivi che abbiamo avviato a giugno, abbiamo creato circa 35,000 nuovi posti di lavoro tra donne, giovani e over 50, ma evidentemente questo flusso nuovo non controbilancia le uscite. È interessante d'altra parte notare come nel terzo trimestre si vedano aumenti nei contratti di collaborazione, nei contratti di apprendistato, che sono in qualche modo quelli più flessibili da un certo punto di vista, mentre non si vede ancora un aumento degli altri tipi di contratti, se non quelli a tempo indeterminato, ma questo è l'effetto degli incentivi di cui parlavo prima. Ministro, a lei piacciono gli inglesismi? Ma mi piace l'inglesismo quando ci manca una parola italiana, per esempio governance o accountability nel vocabolario italiano non ci sono e quindi non è un caso forse. In altri casi invece quando possiamo usare parole italiane preferisco usare quelle italiane. Quindi Job Act o Job Act si poteva chiamare in legge sul lavoro? Ma io sono in attesa naturalmente, come tutti, di conoscere quali saranno le proposte, non solo del Partito Democratico ma anche degli altri partiti. Se andiamo al Jobs Act di Obama, ad esempio, che è stata la proposta che tempo fa aveva il presidente americano ha posto davanti al Congresso, lì c'erano misure di stimolo all'economia, soprattutto in alcuni settori, e soltanto alcuni interventi di natura legislativa, tra l'altro per aumentare le tutele, non per ridurle. Sappiamo che il mercato del lavoro americano è un mercato molto flessibile, diciamo così. Quindi tutti sappiamo che senza una crescita economica è difficile creare occupazione nuova e quindi dobbiamo bilanciare, perché non credo, gli interventi, perché non credo che cambiando semplicemente alcune normative sul mercato del lavoro improvvisamente tutto cambia. No, non ho capito, ma le piace il fatto che si chiami in inglese? Perché molti ascoltatori ci dicono che non si capisce nemmeno di cosa parli un termine come Job Act. L'avrebbe chiamato lei Job Act oppure diciamo legge sul lavoro? Guardi, andiamo sui contenuti. Allora, sui contenuti, il contratto unico perché non può essere l'unica strada? Perché lei questo ha anche detto sulla proposta, per quello che si è capito, di Matteo Renzi. Beh, intanto, scusi, non voglio fare il sofista, come si dice, ma dobbiamo capire di che cosa si tratta. Per esempio, negli anni scorsi abbiamo due proposte di contratto cosiddetto unico a tutele progressive. Una proposta, per esempio, sostenuta da Boeri e altri, che dice nei primi anni di un lavoro, di un rapporto di lavoro, c'è una tutela progressiva, cioè all'inizio l'impresa può facilmente licenziare il lavoratore, poi diventa più complicato, ma se lo licenzia comunque da un indennizzo monetario, però poi dopo tre anni scatta l'articolo 18 per le imprese oltre 15 dipendenti. E invece c'è la proposta di Ichino che dice no, l'articolo 18 si sopprime definitivamente, per cui, o comunque entra in dopo molti anni, per cui l'impresa comunque no, è libera di licenziare. Allora bisogna riuscire a capire di che cosa stiamo parlando. La impressione che io ho è che in questo momento, con un mercato del lavoro, ma soprattutto con un mercato, con una dinamica economica ancora così incerta, noi dobbiamo aiutare sia le imprese che vanno bene, che hanno voglia di investire sul futuro, ad avere contratti di lavoro più di medio-lungo termine, ma anche imprese che sono invece ancora in difficoltà o che cominciano a vedere i primi segni di cambiamento, a essere flessibili. Quindi non credo che un solo strumento, questo è il senso del mio giudizio, possa servire ugualmente a tutte le tipologie di imprese in questa fase congiunturale. E per quello che riguarda comunque la semplificazione delle procedure per le assunzioni, perché anche di questo dovrebbe occuparsi un disegno di legge sul mercato del lavoro, no? Ma guardi, noi siamo intervenuti già per semplificare in parte a giugno, per esempio sul contratto di apprendistato, forzando anche la mano alle regioni, perché dobbiamo ricordare che molte delle regole che vengono lamentate, per esempio dai consulenti del lavoro l'altro giorno proprio su un'intervista, erano in realtà tutte procedure di competenza delle regioni. Forse i nostri ascoltatori non sanno che gran parte delle regole e delle procedure che pesano sulle imprese derivano da legislazioni regionali, perché le politiche attive del lavoro, i tirocini, l'apprendistato e così via non sono normabili dal centro, dal governo, ma sono normate da 20 regioni e purtroppo in maniera talvolta differente. Per cui le faccio solo un esempio: sull'apprendistato fino a settembre le imprese che hanno stabilimenti in più regioni dovevano andar dietro a 20 diverse legislazioni per l'apprendistato, per i tirocini. Adesso questo non c'è più, perché vale la regola della regione in cui è la sede legale dell'azienda. Senta, Ministro, nel ringraziarla e salutarla, però oggi il tema grosso della giornata riguarda anche quello che è successo sulla scuola. Ma secondo lei il Ministro Saccomanni dovrebbe dimettersi? Ah, guardi, io non parlo minimamente di queste cose. Credo cioè, che... Ma è possibile che veramente il Ministeri non abbiano avvisato? Perché oggi, poi lo faremo sentire, il Ministro Carrozza, che è il nostro ospite, ha detto, oltre che Saccomanni non deve dimettersi, ha detto nessuno ci ha avvisato di quello che stava capitando. Ma a lei mai è successo nel suo Ministero? Ma guardi, il rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è un rapporto che prevede decine e centinaia di atti al mese e al trimestre. Quindi può accadere che per un atto in particolare ci sia un difetto di comunicazione. Il punto fondamentale è che abbiamo procedure anche interministeriali troppo complesse. E proprio oggi ho avuto una riunione con i direttori generali del nostro ministero per identificare una serie di procedure che possano essere eliminate o semplificate proprio per chiarire chi è responsabile di che cosa, perché se abbiamo sempre il sistema della doppia o della tripla chiave, cioè che servono tre firme per ogni atto, magari le carte vanno in giro e poi si realizza una decisione di cui nessuno veramente ha la piena responsabilità. Questa cosa va superata anche per dare ai dirigenti pubblici molta più responsabilità e dunque eventualmente essere più in grado di punirli attraverso gli strumenti previsti dalla legge nel caso in cui non vengano fatte le cose correttamente. Ma secondo lei andrebbero puniti questi dipendenti? Perché il Ministro Carrozza parla di inerzia amministrativa, nessuno ci ha comunicato ai ministri competenti cosa stesse avvenendo. Io non conosco la questione e quindi non esprimo giudizi di questo tipo, però le posso dire per la mia lunga esperienza anche di manager pubblico che la complicazione che abbiamo nelle procedure è eccessiva. Fa sì che la responsabilità finale è molto difficile da identificare e questo è uno dei problemi che abbiamo nel funzionamento del diritto amministrativo italiano, anche perché da un lato abbiamo giustamente responsabilizzato i dirigenti dei ministeri, ma delle regioni, dei comuni e così via, che se sbagliano hanno delle penalizzazioni forti non solo dal punto di vista monetario, ma dall'altro, poiché è sempre possibile che qualcun altro sindachi anche la libertà che la legge ti ha dato, ogni dirigente cerca in qualche modo di farsi coprire da qualcun altro e quindi questo moltiplicare di firme blocca in qualche modo il che blocca tutto speriamo che si arrivi anche a una semplificazione su questo. Ministro, io le do appuntamento a quando magari vorrà commentare con noi un Job Act, quindi la proposta di Matteo Renzi con dentro anche dei contenuti più chiari. Grazie intanto al Ministro al Lavoro Enrico Giovannini. Grazie a voi. Allora, professor Magatti, l'ho tenuto in attesa perché dopo il metro pubblicità vorrei invece che lei ci raccontasse, al di là delle cifre, dei numeri, tanto abbiamo capito che qua l'occupazione cala e la disoccupazione cresce, che tipo di generazione, lei che la studia da vicino, stiamo generando? Perché, ripeto, non si tratta di un anno difficile, qui è dal 2009 che andiamo avanti con gli anni difficili, siamo nel 2014, non, dai dati che vediamo un vero calo della disoccupazione potrebbe arrivare forse nel 2015, probabilmente nel 2016. Abbiamo fatto già un pezzo di vita lavorativa di un ragazzo che si fosse laureato o diplomato nel 2008-2009 e penso che a questo punto non si possa solo più parlare di un cambio di attesa, di aspettativa, ma di un cambio generazionale vero e proprio. La sua risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Magatti, lei che studia da sociologo anche i mutamenti, anche le eccellenze e i virtuosismi di questa generazione, è una mia sensazione o quando una crisi si prolunga non è più una crisi? Io intanto faccio l'esempio del rapporto di coppia, se tu litighi con tua moglie per un mese, per due mesi sei in crisi, ma sei due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni che stai litigando, è una separazione, non è più una crisi. Questo è il quinto anno che andiamo a commentare disoccupazione in aumento e occupazione in calo e andremo avanti probabilmente anche nel 2015. Cambia strutturalmente, diciamo, la generazione che stiamo formando o che abbiamo appena formato? certamente sì, non si tornerà più da dove siamo partiti, da tanti punti di vista, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico. Questo bisogna metterselo bene in testa e bisogna cercare di far sì che il futuro sia migliore e non peggiore, questa è la grande scommessa. Comunque ci sono, vedo nei giovani, tre modalità di tre effetti, diciamo, di questa crisi prolungata. La prima è quella, diciamo, della parte più avanzata, è quella della fuga. Sappiamo che tantissimi ragazzi, soprattutto quelli laureati, quelli che hanno delle competenze elevate, ormai da qualche anno stanno lasciando il paese perché non hanno possibilità, e stiamo avendo una emorragia di intelligenza e di capacità molto grande. Questa è una cosa che assolutamente ci deve preoccupare. Il secondo effetto è quello degli apatici. Diciamo chi ha la fascia media e medio-bassa. La correlazione che faccio, naturalmente non si può generalizzare, ci mancherebbe, la relazione tra disoccupazione giovanile e diffusione fortissima del gioco d'azzardo di varia natura e genere. Cioè ci sia, come dire, di fronte a una società che sembra non aprirsi una strada ragionevole, c'è il ricorso all'idea della scommessa, della dea fortuna. E il terzo modello, che è solo un po' accennato in Italia, abbiamo avuto qualche piccolo fenomeno, è quello degli arrabbiati, cioè comunque la parte del mondo giovanile che comincia a scocciarsi della situazione che c'è. Dietro questa cosa, in qualche modo in positivo, se si vuole, c'è anche il movimento che sta dietro al nuovo segretario del PD, cioè ho scritto da qualche parte che la nuova segreteria esprime anche un conflitto generazionale, e dunque c'è una parte dei giovani che è arrabbiata, diciamo una parte cerca di essere propositiva, un'altra parte va in piazza, e queste sono un po' le tre forme che io vedo diffondersi in questo momento in Italia. Allora sì, sulla fuga, a parte il fatto che lei avrà notato, Magatti, che in questo paese la fuga dei cervelli, non so se lei se ne è mai accorto, ma non riguarda mai la politica. No, dico, ci sarebbe una battuta, ma che non possiamo fare. No, dico, ma è vero, cioè fuggono cervelli, ma insomma è solo su alcuni settori. Detto questo, però, io sulla fuga dei cervelli ho un'opinione un po' diversa, nel senso che secondo me è giusto che un giovane, dopo che si è formato, faccia un'esperienza all'estero, anzi certo, è doveroso. Con la globalizzazione a cui stiamo assistendo, il problema è che non rientrano. Non rientrano e non li attraiamo, quindi no, quello che dice lei è sacrosanto, il problema è che se ne vanno solo ma nessuno viene, questo segna il fatto che... Le chiedo un'ultima cosa, perché molti ascoltatori fanno notare, però attenzione, non è che stiamo formando o che la nuova generazione sia formata peggio delle generazioni di una volta, cioè che ci sia anche un problema di formazione? Ma su questo io mi permetto di avere dei dubbi. C'è, come sappiamo cronicamente in Italia, un problema di orientamento, per cui abbiamo sia a livello della laurea sia a livello dei diplomi molti ragazzi che hanno competenze sbagliate rispetto al mercato del lavoro. Questo problema c'è. Sulla qualità complessiva della formazione io tendo a avere un giudizio un po' più cauto, intanto perché vediamo che i ragazzi che vanno all'estero sono capaci di farsi apprezzare molto e spesso raggiungono veramente delle eccellenze, ma poi perché io posso testimoniarlo per quello che conosco nel mondo universitario, che i ragazzi di oggi non penso che siano peggio di quelli di ieri. Ultima domanda che avevo per lei, in realtà non è che manchino anche, adesso mi rendo conto la situazione è difficilissima, la raccontiamo ogni giorno, ma non ci può essere anche un effetto scoramento in quelli che lei ha definito apatici e comunque nei tassi di occupazione, per cui di gente che non vuole nemmeno cercare un lavoro, magari prolunga gli studi con master più o meno utili, più o meno improbabili, anche di un'assenza di, non dico modelli positivi, ma di speranza, cioè qui andiamo avanti, nel momento in cui tu vedi che la generazione che dirige il paese va avanti galleggiando a tastoni, al giorno per giorno, ti manca anche una direzione. Forse c'è una responsabilità anche nel non fornire modelli, diciamo, virtuosi per quanto si possa riuscire? Ma intanto sulla prima parte della domanda, lo scoramento raggiunge un livello tale per cui, a differenza di qualche anno fa o di altri momenti storici, non c'è più nemmeno l'investimento nella formazione, cioè non si raccolgono più neanche i master, ecco, non si fa più niente, quindi siamo a un livello ancora peggiore. Sì, più che di modelli, la sensazione che io ho è che c'è questa generazione che, per questo temo che alla fine questa roba scoppierà, perché è molto difficile immaginare che non arrivi a un punto di esplosione. Cioè è chiaro che c'è la generazione precedente che, vuoi per sbadataggine, per insipienza, per quello che vogliamo noi, è come se la generazione precedente costituisse un problema per la nuova. E questo, dal punto di vista dei rapporti sociali, è veramente un tema esplosivo. Sì, anche perché è un falso, nel senso che da sempre sappiamo che il mercato del lavoro non è che se tu cacci un cinquantenne trovi il posto di un venticinquenne, non funziona così il mercato del lavoro, funziona che se l'economia cresce c'è posto per il cinquantenne e per il venticinquenne, se no, se la torta si restringe è la guerra tra poveri, non è, diciamo, il tasso di sostituzione, non è esattamente come pensano alcuni, la vera differenza la fa un'economia che cresce o un'economia che si restringe, consumi che aumentano o consumi che calano. Sì, questo, come dire, si è sottovalutato nelle tante cose di cui non si è parlato in Italia, è che l'economia ha a che fare anche con la dinamica e i rapporti tra le generazioni, cioè gli equilibri demografici sono importanti economicamente, il modo in cui si entra e si preparano le persone è importante, il modo in cui si esce, cioè l'Italia è come se negli ultimi 20 anni fosse vissuta fuori dalla realtà. Su questo non ci sono dubbi. Cerchiamo di raccontarlo, mentre il resto del mondo andava avanti, noi stavamo fermi e adesso ne paghiamo anche le conseguenze. Grazie a Mauro Magatti, che è preside appunto della Facoltà di Sociologia alla Cattolica di Milano. Allora, di tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, uno solo è irricevibile, perché c'è un ascoltatore che mi dice: adesso spiegherò l'esempio che ha fatto di consulenza matrimoniale, farò riascoltare la trasmissione a mia moglie così finalmente capirà che la soluzione è la separazione. Spero di no. E invece adesso andiamo con il traffico e poi la borsa, che ha chiuso meno 0,17%, sostanzialmente in linea assoluta con le altre borse europee. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa. Non riesco a rispondere a tutti i messaggi sulla disoccupazione giovanile, sullo scoramento dei giovani, sull'esempio. Una cosa però è chiara in quello che ricordava Mauro Magatti: è molto pericoloso se passa il concetto, che sta passando purtroppo, che il problema di un giovane che non riesce a trovare lavoro è l'esistenza di un cinquantenne che il lavoro ce l'ha, perché questo si chiama conflitto generazionale, non scontro, ma conflitto vero e proprio. E anche perché è un cortocircuito mentale non supportato da nessuna analisi, ma che è molto molto facile da assorbire, no? Vai via tu vecchio che dasci il posto a me. Che con esempi che abbiamo visto anche nel passato viene anche facile sposare. Allora, la borsa meno 0,17% Milano, Parigi invariata, Francoforte meno 0,1%, Londra meno 0,50%, l'America sta perdendo lo 0,35%, Intesa San Paolo più 2,20%, Unicredito più 2%, Popolare Emilia Romagna più 2%, Banco Popolare più 1,30%, sono i migliori titoli, assieme a World Duty Free più 1,60%, Telecom Italia più 1,30% e A2A più 1,15%. Invece, debole tutto il settore del lusso, Ferragamo perde il 5,80%, Tozzi il 2,5%, Luxottica il 2,40%, poi Prismian, l'ex Pirelli Cavi perde il 3,5%, Pirelli perde il 3,20%, la Popolare di Milano perde il 2,5% come Mediolanum ed Exor il 2,1%. Movimenti anche su A2A, perché ci sono ipotesi di stampa di un interesse della Fondazione Cariplo. Chiara Di Cristoforo, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Partiamo da A2A. Sì, allora A2A ieri in realtà abbiamo scritto noi una novità su A2A, ci sono delle potenziali mosse della Fondazione Cariplo, questo ha scaldato il titolo oggi. Fondazione Cariplo ha una quota dell'1,1%, potrebbe salire rilevando i titoli che saranno venduti dai comuni di Brescia e Milano entro marzo. Si tratta di un 5%. Tra l'altro i due comuni preferirebbero diminuire le loro partecipazioni senza vendere direttamente sul mercato, ma individuando compratori sicuri che diventino poi alleati sicuri in caso di ulteriore riduzione delle quote sotto il 50% del capitale. C'è anche un altro elemento che va considerato, che il business plan della società, che sarà presentato a fine marzo, prevede un target di riduzione di costi superiore ai 70 milioni rispetto al piano precedente. Queste sono mosse che in genere il mercato apprezza molto. Ancora per quello che riguarda i titoli, bene oggi Mediaset, che è un po' di seduto che va bene, mentre debole Fiat, qui c'è un allarme anche di Moody's, se ho ben visto. Sì, ieri è arrivato questo report di Moody's, l'agenzia di rating era in realtà abbastanza atteso. Moody's avverte che potrebbe tagliare il giudizio sul debito della società dopo l'acquisizione della quota di Chrysler, accordo raggiunto all'inizio dell'anno. I titoli, lo ricordiamo, dopo questo accordo erano saliti del 16% in un'unica seduta. Secondo Moody's questa acquisizione potrebbe indebolire la posizione finanziaria di Fiat, quindi pesare sul debito. In realtà poi altri analisti invece nei primi commenti avevano detto che tutto sommato era una mossa positiva, perché non avrebbe pesato troppo sul debito, non ci sarebbe stata la necessità di un aumento di capitale. Insomma, Moody's per il momento avverte, di fatto poi vedremo a conclusione dell'operazione cosa effettivamente succederà nei conti di Fiat. Dicevo del settore del lusso, che è due giorni che viene stornato, molto era cresciuto anche Brunello Cucinelli, oggi ha perso il 5%, tutto in occasione di Pitti tra l'altro, vabbè. Match e Moncler meno 4,22%, c'è un titolo però che appartiene al settore del lusso ma è andato benissimo oggi, mi riferisco a Pquadro, più 6,30%. Sì, qui c'è una notizia, perché nei primi 9 mesi dell'esercizio 2013-14, che si è chiuso a fine 2013, il fatturato è cresciuto di quasi il 12%, parliamo di oltre 45 milioni di euro. Questo sia per le vendite retail che per quelle all'ingrosso, è un dato migliore di quello che si aspettava il mercato, il titolo è stato premiato. In generale, come dicevi tu, il lusso è andato molto bene alla fine dell'anno scorso, Ferragamo in particolare era salita tanto e a inizio dicembre aveva toccato il record storico, di fatto sta diciamo oggi ha accentuato quel movimento ribassista che era iniziato dopo quel top. Ancora tra i migliori e peggiori segnalo Meridie più 20,70%, Screen Service più 18,90%, Zucchi più 7,40%, appunto Pquadro. Fronte opposto Invest meno 13,90%, Ferragamo e Cucinelli abbiamo detto, IKF meno 4,30% e Gefran meno 4%. Grazie a Chiara Di Cristoforo, Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Allora, dopo il GR adesso ci occuperemo invece del pasticciaccio, diciamo, che ha coinvolto il governo, due ministri, economia da una parte, economia e finanza da una parte, istruzione dall'altra, in attesa sempre di capire che cosa ne sarà di questa TASI. Dico, contrariamente al nome se ne parla molto, tutto tranne che TASI, questa nuova tassa. E vedo molti messaggi che riguardano anche il tema della disoccupazione giovanile. C'è uno ascoltatore che mi scrive: lei ha paura per il suo posto, vecchio? Ma guardi, io il mio posto lo perdo se il programma va male, giovane o vecchio poco importa. No, non è questo, ho paura che con un cortocircuito facile si instauri il meccanismo e l'impressione che il problema della disoccupazione giovanile venga creata dai cinquantenni, tra l'altro con la riforma Fornero obbligati a stare, proprio la generazione di quest'anno, obbligati a stare più a lungo al lavoro, che questo sia il problema dei giovani. Il problema dei giovani è che c'è un paese che non cresce, tu puoi anche far fuori tutti i cinquantenni, ma se il paese continua a restringersi come PIL e consumi non ne usciamo. Comunque, il GR e poi parliamo del governo, di del retromarcia sul fronte insegnanti, invece attesa sul fronte TASI. Alle 18:07 riprende la seconda parte di Focus Economia. Sì, non è la nostra testa essere una giungla, è quella del governo, col massimo rispetto possibile per i ministri coinvolti nel pasticciaccio degli insegnanti, il ministro Carrozza, che adesso sentiamo, perché è intervenuta questa mattina a Radio 24 a effetto giorno, e invece sulla Tasi che ci sono buone notizie. Allora, agli insegnanti non saranno chiesti 150 euro retromarcia, ma la cosa che, per carità, nessuno nella vita è perfetto, i pasticci capitano a tutti. Quello che lascia obiettivamente un po' perplessi, per quello che ne parlavo con il ministro Giovannini all'inizio del programma, è che il ministro Carrozza ha detto, il ministro Saccomanni non deve dimettersi, ma tra Natale e Capodanno sono stati presi questi provvedimenti per inerzia amministrativa, senza comunicare ai ministri competenti che cosa stava avvenendo. Abbiamo affrontato un problema e stamani abbiamo trovato la soluzione. Stiamo lavorando perché tecnicamente poi ci siano le norme che seguono quest'idea che abbiamo avuto oggi. Sa, di questi problemi ne abbiamo uno al giorno, non è facile amministrare un sistema che ha così tanti insegnanti, su cui si sovrappongono normative che vengono da accordi Tremonti-Gelmini, poi il governo Monti. Insomma, quello che noi troviamo adesso è la sovrapposizione e la stratificazione. Sa una cosa, che sugli insegnanti agiscono il MEF, agiscono la funzione pubblica e il MIUR, non è che la gestione avviene tutta in un luogo, è già questo. Per quanto riguarda, cioè, lei dice già tre ministeri che devono intervenire, figuratevi come quando dobbiamo mettere le mani su queste cose che cosa succede. Le chiedo una cortesia di aiutarci a capire come è potuto avvenire tutto questo. Ma dunque, il tema è che comunque sia fra diciamo Natale e Capodanno sono stati presi questi provvedimenti per inerzia amministrativa, senza diciamo comunicare ai ministri competenti quello che stava avvenendo. Quindi secondo me ci sono due o tre diciamo cose da fare concrete. La prima, tecnicamente, risolvere questo problema del prelievo dagli stipendi, perché è veramente brutto, considerato che nel 2012 ancora sono a credito chi deve ricevere, come dire, gli scatti di anzianità. Quindi c'è un problema anche di giustizia ed equità rispetto agli stipendi degli insegnanti, che sono anche molto molto bassi, per cui 150 euro è davvero tanto per loro e non era una bella cosa. Secondo, affrontare il tema del governo della scuola a un livello diciamo più normativo, ma anche di organizzazione e gestione. Non è pensabile che da una parte si decidono le cose, dall'altra si decide quando e come si pagano gli stipendi. Insomma, è tutto fatto in automatico, ma alla fine l'indirizzo politico e il collegamento fra indirizzo politico e poi atto amministrativo si perde in una serie di organi di controllo, di gestione, ed è per questo che serve la riforma dello Stato, proprio per avere anche non solo celerità nell'eseguire le azioni, ma anche sapere chi è il responsabile direttamente poi di queste decisioni e le loro conseguenze, però i cittadini le pagano, come nel caso degli insegnanti. Vabbè, insomma, cioè, va bene, si fa per dire, almeno ci ha messo una pezza il governo. C'è questa nuova categoria filosofica, esistenziale, dell'inerzia amministrativa, per cui i funzionari vanno avanti senza avvisare i ministri, perché ormai sono corpi autoreferenziali, da quello che capisco io. E allora, su questo, intanto ringrazio per averci raggiunto l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Buonasera, Guido. Buonasera a voi. Io capisco tutto, ma insomma mi mancava l'inerzia amministrativa, un principio quasi galileiano, insomma quasi della fisica più che della filosofia, però siccome ogni tanto qualche buona notizia c'è, io non so se questa sia una buona notizia, diciamo che è una notizia buona il fatto che il governo abbia deciso, ed ecco perché c'è Gianni Trovati, questa volta non in versione scaramantica. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, che cosa avete capito, visto che te ne occupi quotidianamente, della TASI? Perché il nostro genere hanno anticipato che a questo punto il governo presenterà un emendamento per concedere ai comuni la possibilità di incrementare le aliquote oltre i massimi attuali, vincolandola alle detrazioni, se ho ben capito, per le famiglie e i ceti più deboli. Di quanto sarà questa aliquota in più? Allora, è notizia appunto di questi minuti, l'emendamento darà ai comuni uno 0,8 per mille aggiuntivo. Allora, ricordiamoci, i limiti delle aliquote 2014 della TASI sono 2,5 per mille sulle abitazioni principali e 10,6 per mille sugli altri immobili nella somma di IMU più TASI. Quindi il comune ha questo pacchetto da 0,8 aggiuntivo che può o scaricare tutto sulla prima casa, portando quindi l'aliquota al 3,3, o scaricare tutto sulla seconda, quindi portandola all'11,4, oppure dividere, metterne un pezzo sulla prima casa e un pezzo sulla seconda. La cosa fondamentale è che però l'emendamento dovrebbe introdurre un meccanismo per cui il gettito aggiuntivo prodotto da questo aumento ulteriore di aliquota deve essere finalizzato all'inserimento delle detrazioni. Il risultato quale sarà? Pagheranno ancora un po' di più chi ha una, diciamo, negli appartamenti normali, chi non sarà tutelato dalle detrazioni del comune, perché il comune potrà scegliere a chi, a quali tipologie di famiglia, a quali tipologie di immobili destinare la detrazione, pagheranno di meno o in prima battuta non pagheranno nulla quelli che non pagavano già l'IMU, perché la loro abitazione era di valore medio-basso. Resta da capire come verrà controllato in effetti questa destinazione obbligatoria, cioè chi e come controllerà che il comune destini tutto l'aumento del gettito al finanziamento delle detrazioni. È una cosa non semplice, perché tutte queste norme di obbligo, anche perché sono più di 8.000 comuni in Italia. Sì, appunto, ma guarda, io mi cito questo esempio, c'è da infinito tempo nel codice della strada una norma che dice che il 50% delle multe, del gettito da multe, va destinato al miglioramento delle strade e così via. Nessuno ha mai controllato nulla e i comuni hanno fatto quello che avevano voglia. Bisogna vedere che come e con quali modalità si faranno i controlli. Comunque sia, al di là di questo, il risultato finale dipenderà dalle scelte dei comuni, che saranno le più varie, e quindi sarà anche un bel rebus per chi, i centri di assistenza fiscale, chi dovrà compilare, seguire le delibere, eccetera. In generale c'è un rischio che si paghi ancora di più su tutti gli altri immobili, quindi non solo seconde case, ma anche i negozi, i capannoni, gli immobili delle imprese, gli alberghi, i centri commerciali e così via, che già sono stati tartassati dalle ultime manovre. C'è la possibilità che si paghi un po' di meno sull'abitazione principale, soprattutto se si è una tipologia di famiglia o si abita in una tipologia di immobile che è tutelata, che sarà tutelata dal comune. E l'unica certezza è quella che dicevamo anche ieri, che invece chi abita in belle case grandi, in centro, in villini e così via, pagherà comunque di meno rispetto all'IMU. Ecco, rispetto all'IMU, una cosa sì, che già mi sembra comunque una sconfitta a livello di progressione delle tasse, perché insomma l'IMU di fatto era una piccola patrimoniale, ora può piacere o può non piacere, però se decidiamo che ci deve essere una tassa sulla casa è corretto, uno può anche dire che non è giusto che vi sia una tassa sulla casa, però se c'è, che almeno sia progressiva. Già il catasto ha amplissime distorsioni, ci manca pure l'addizionale. Una cosa vorrei capire rispetto all'ipotesi che è circolata fino a questa mattina di un addizionale per i comuni dal 2 al 3 per mille, il fatto che l'addizionale possa essere tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille vuol dire che le detrazioni che poi i comuni permetteranno saranno di gran lunga più basse? Diciamo che sicuramente la quantità e la qualità delle detrazioni dipendono dalle risorse disponibili. Siccome le risorse sono rese disponibili dall'aumento di aliquota, diciamo un aumento inferiore determina detrazioni inferiori. La regola generale è questa: più tu alzi l'aliquota, più hai la possibilità di mettere detrazione e quindi più rendi l'imposta progressiva. Cioè, come per l'IMU. Quindi, se ho ben capito, paradossalmente, il comune che applica un'aliquota dello 0,1 per 1000, tu dici bravo il comune che non mi carica l'aliquota sulla TASI, però in realtà non avrà i soldi per le detrazioni. Potrebbe, quindi, esattamente succedere quindi questo. Quindi sarà un comune in qualche modo più iniquo, perché farà pagare di più chi ha case piccole e di meno chi ha case grandi e di pregio. Mentre il comune che metterà l'addizionale fino allo 0,8 per 1000 farà pagare di più i suoi cittadini, però è un comune più equo e meno iniquo, perché aumenterà le detrazioni per quello che riguarda le famiglie meno abbienti. Ecco perché dicevamo che la testa è un po' confusa. Allora, nel ringraziare Gianni Trovati, Guido Gentili, dopo il traffico vorrei il tuo commento, ma c'era un detto una volta, no? Poche idee, ma confuse qua, insomma. Mi sembra che, ma molto confuse. Ma molto, mi sembra che io adesso vorrei capire anche come nota politica, se questo stato di confusione sia solo una coincidenza, perché siamo arrivati a fine anno col Salva Roma, poi bloccato il pasticcio degli affitti, adesso ci mancavano le 80.000 lettere spedite agli insegnanti, la TASI che fino all'ultimo. Trovati, si è capito se si paga in una rata o in due, che è un dettaglio? Tu pretendi troppo. Perfetto. Allora, però insomma, mi sembra che qui ci sia, io non riesco a capire se sia solo una coincidenza legislativa di inerzia amministrativa, come ha detto la carrozza, oppure sotto sotto il governo stia andando in fibrillazione per motivi politici, che poi si chiamano Renzi e i dialoghi bilaterali che sta facendo con i vari partiti di questo paese. Dopo il traffico, la risposta: 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, Guido Gentili, coincidenza, al cui interno mettiamo anche questa nuova categoria esistenziale dell'inerzia amministrativa, o non coincidenza? Ma secondo me sono, tu dicevi prima, sotto sotto l'effetto Renzi, beh, certamente c'è anche questo, ma il sotto sotto e sopra sopra, diciamo, è una somma di tutto ormai, diciamo, una sorta di resa dei conti noi stiamo assistendo. Credo che l'abbiamo visto, è cominciato, diciamo, a dicembre con l'assalto alla legge finanziaria, certo. Uno, e con il cosiddetto decreto Salva Roma 2, che poi il governo è stato costretto a ritirare dopo che il giorno prima aveva ottenuto la fiducia alla Camera, e prosegue, diciamo, con questo diciamo il rebus che riguarda la mini IMU prima, adesso, diciamo, la TASI. Perché ovviamente io ho ascoltato con grande attenzione quello che ha detto anche il collega Trovati prima, però sta di fatto che oggi un cittadino, un normale cittadino che diciamo viene interrogato su quanto pagherà il prossimo anno, non lo sa, perché non lo può sapere. E quindi questa è, diciamo, la situazione in cui versa lo Stato italiano in questo momento, ed è esemplare secondo me il caso degli scatti, degli stipendi bloccati degli insegnanti e poi, diciamo, risbloccati questa mattina dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, perché abbiamo due ministri che litigano tra loro, si addossano le responsabilità sotto, diciamo, lo sguardo di una burocrazia che, diciamo, è assolutamente autoreferente, con un sistema di leggi che è assolutamente incomprensibile, e quindi in un sistema che si sta autobloccando nel complesso, sia dal punto di vista normativo che politico-decisionale. E questi sono, diciamo, gli effetti che stiamo vedendo in questi giorni. Ecco, tu dicevi sopra c'è un insieme di nodi che arrivano al pettine, ma sotto c'è anche un elemento, una valutazione di carattere politico, cioè è chiaro che il governo è andato in fibrillazione, ha perso un pezzo della maggioranza con Forza Italia che è uscita, ma soprattutto è andato in fibrillazione con le trattative che Renzi sta aprendo a tutti i vari partiti sui tre modelli di riforma elettorale, per esempio, oltre che poi sul Job Act e quant'altro. Ti chiedo, a questo punto molti, anche gli ascoltatori, invocano al rimpasto. Fassina si è dimesso, ieri era ospite del nostro Giovanni Minoli, Saccomanni, oggi il ministro Carrozza ai nostri microfoni ha detto non, Saccomanni non deve dimettersi, però chiaramente un ministro sempre più in difficoltà è sempre meno visibile nella sua capacità di dare un timone alla manovra economica del governo, mettiamola così. Tutto mi sembra che ricada sulle spalle di Letta alla fine, no? Perché il collo della bottiglia è lì. Io credo che Letta avesse nelle sue previsioni la possibilità di arrivare a un rimpasto, come, diciamo, così come del resto è tante volte accaduto già nel passato in Italia, come, diciamo, suggello della verifica politica che si va facendo. Però io credo anche, diciamo, me ne assumo la responsabilità personale, credo che Renzi non si farà, diciamo, ingabbiare in questa ipotesi, perché Renzi ha tutto da perdere, diciamo, con la sostituzione di un ministro attuale, della compagine di governo attuale, che sia Saccomanni, che sia il vice ministro Fassina, non importa, eccetera, con un, tra virgolette, renziano. Questo, diciamo, non risponde alla logica che ha profilato Renzi per la sua strategia politica. Quindi non credo che lui si farà ingabbiare nel recinto del rimpasto, e quindi le tensioni, secondo me, sono destinate a salire e non a scendere. Ecco, per quello che riguarda poi invece il tema, a questo punto il governo ha però chiuso, speriamo, insomma, tutto l'impianto di quella che è la legge di stabilità per il 2014. Poi è iniziato oggi il semestre greco, per cui il prossimo sarà quello italiano. La finestra per andare alle elezioni, perché è inutile girarci attorno, poi di questo stiamo parlando, è da qua a maggio a questo punto. E certo, è da qui a maggio, ed è ovviamente subordinata a una corsa contro il tempo per l'approvazione della nuova legge elettorale, che credo che però questo sia, diciamo, l'obiettivo che ha Renzi. E quindi poi si apre, diciamo, la finestra, e tra l'altro c'è stata una discussione anche tecnica sul fatto se si può o no abbinare il voto in Italia con l'appuntamento delle elezioni europee, sembra di sì, quindi che non ci siano, diciamo, degli ostacoli formali su questo, e quindi è possibile che a quel punto si vada a votare, tra l'altro in un quadro, appunto, dove, come dimostra il caso degli insegnanti, gli incidenti sono all'ordine del giorno e le fibrillazioni politiche sono molto molto alte, quindi non credo io quanto può resistere, diciamo, una condizione di questo genere. E vedremo poi l'impatto che avrà il tipo di riforma elettorale su cui si troverà un accordo anche sulle varie parti della maggioranza. Hanno ragione gli ascoltatori nel dire comunque il dato di fatto è che ancora non si sa quando dovremo pagarla. A questo punto penso che parlo della Tasi, c'era una dichiarazione oggi di un renziano che diceva andiamo a pagarla a giugno, a questo punto tanto di cosa stiamo parlando, mentre nella versione originale veniva data ai comuni la possibilità di scegliere una rata o due, nel qual caso con due rate avresti dovuto pagarla adesso. Mi sembra che la soluzione migliore sarebbe pagarla a giugno, questa Tasi. Alcuni scrivono anche che a questo punto conveniva tenersi la vecchia IMU. Vabbè, questa è una valutazione di carattere politico. Grazie anche a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Volete sapere della multa? Non è una multa, in effetti oggi non abbiamo parlato. Comunque la Consob tedesca ha severamente criticato il comportamento di Deutsche Bank sull'operazione Santorini con Monte dei Paschi di Siena. È vero, è un tema strettamente di finanza, ma è tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.